Oltre ai campi qui nelle valli bresciane, la LAC organizza altri campi antibracconaggio anche in altri periodi dell'anno. Organizziamo 3 campi antibracconaggio che sono gli storici campi della LAC, che sono le valli bresciane, l'isola di Ponza e Sardegna. Però da quest'anno si aggiungono le valli del Trentino Alto Adige, perché è stato scoperto questo traffico di pictor turdidi che vengono prelevati all'interno dei meleti. È un mercato nero che alimenta il mercato dei richiami vivi, che poi vengono appunto distribuiti nelle valli, anche nelle valli bresciane. Per partecipare ai nostri campi di solito vengono formati i volontari attraverso un corso che viene fatto in un'oasi chiamata Oasi Smeraldino a Rozzano. Nel corso vengono presentate le varie anche leggi che tutelano la fauna selvatica, perché il volontario dell'antibracconaggio deve essere consapevole che purtroppo la caccia e il bracconaggio sono distinti. Perché dico purtroppo? Perché per noi ovviamente si tratta di uccisione di animali, cacciatori o bracconieri sono la stessa cosa. Ma dove il volontario può intervenire? Laddove la legge è dalla nostra parte. In questo caso il bracconaggio è vietato e quindi i volontari formati sono in grado di essere di supporto alle forze dell'ordine o essere anche loro in grado di poter intervenire qualora ci fosse un'attività illecita in atto. Per informazioni e per partecipare ai campi antibracconaggio della LAC è possibile scrivere alla mail info@aboliziocaccia.it oppure contattare l'Oasi Smeraldino di Rozzano alla mail apenatura@gmail.com.